Innanzitutto una richiesta di sicurezza maggiore di quella che c'è rispetto alla situazione Covid e ovviamente a partire da coloro che sono in prima linea. Parliamo ovviamente di tutte le attività legate alla sanità, all'assistenza, al sistema educativo scolastico. Poi uno straordinario piano di assunzioni, perché nei prossimi anni abbiamo già perso più di 300.000 lavoratori nel pubblico e ne perderemo altri 500.000. Quindi c'è la necessità di investire sulla pubblica amministrazione, sui giovani, sulle attività tutte, a partire appunto dalla sanità, dall'assistenza, ma non solo, anche tutte le attività legate alla vigilanza, al recupero dell'evasione e dell'elusione. Questo è un altro. E infine il rinnovo del contratto, che è un diritto di tutti i lavoratori, con risorse certe, con risorse adeguate. Queste sono le motivazioni del nostro sciopero di oggi. Bologna, avete scelto di fare un presidio davanti all'ospedale maggiore, insomma un luogo simbolico. Certo, è un presidio assolutamente unitario e saranno lì i lavoratori, i delegati, tutti quelli ovviamente compatibilmente con la situazione pandemica, che non consente per tanti motivi di essere più che tanti. Anche negli ultimi tempi è ritornato quello che è un po', come dire, un ritornello che ogni tanto torna, cioè i dipendenti pubblici sembrano un po' un capro espiatorio sulle cose che non funzionano, certo, in Italia. Lei cosa pensa? Certo, io penso che sia una cosa, mi lasci passare il termine, indecorosa. Indecorosa perché scarica su lavoratori che hanno tenuto in una situazione drammatica quella che c'era tra marzo, aprile, maggio e quella che si ripresenta oggi, ma ripeto, in sanità in prima linea, nell'assistenza, ma non solo. Le do questo dato: l'INPS, che è diventato il capro espiatorio di quelle che sono le attività in un qualche modo amministrative, nel giro di 3 mesi, con 300 dipendenti in più da luglio dell'anno scorso in tutta la regione Emilia-Romagna, ha liquidato un numero di prestazioni uguale a quello degli ultimi 5 anni. Questi sono i dati. Ma quello che emerge è che l'INPS non eroga e non dà le prestazioni, la giustizia ferma, quello che viene fuori è solo questo e si dimentica qual è appunto la situazione anche rispetto al numero del personale addetto.